123 123. Perfetto. Antonio, ci sei? Ci siamo ora che ci sono. Ok, ok. Va bene, ok, sono contento. Allora, la prossima volta so già cosa fare, devo spostare il piano di marcia, cioè aggiungere un altro paio di radiali. E così vediamo un pochettino di buttarle un altro po' giù queste benedette stazionari. KK. Salotto, che radio, come scendi? Bella forte, mi sembra un po' troppo, forse un po' troppo. Un po' forte? Se hai la possibilità di diminuirlo un po', perché sei quasi saturo da questa parte. Adesso va meglio. È bellissima, pulita. Forse però è perché siamo troppo vicini. No, non è quello. Stavo provando una cosa. Chiaramente è sceso anche di molto il segnale, eh? Vabbè. Quello è senza un po' di dubbio. Vabbè. Diciamo da 15 a 20, eh. Da 9 più 15 a 9 più 20. Questa è la differenza, diciamo, insignificante da un punto di vista dell'ascolto, perché ci sentiamo benissimo. Antonio, riprendila! Pagata. Ma sempre con la cornata della palla, sento. Però oggi non stavo riuscendo a farlo funzionare bene, Anto. Ora ho provato quest'altra cosa. In pratica adesso ho allungato l'antenna con un filo di altri quasi 40 metri. Niente, stavo provando ad allungare il polo caldo fino a riuscire a vedere un pochettino se guadagnavo qualcosa in ricezione, però ne ho pagato tantissimo in stazionari e quindi ho dovuto cercare di porre rimedio, perché le stazionari si sono sollevate tantissimo e quindi ho provato mille posizioni e questa sembra quella più promettente. Caffa. Non potevi lasciare come era prima. Da un punto di vista della ricezione ho migliorato qualcosa in più mi entra, soprattutto nelle altre frequenze, e quindi insomma, se riesco a buttarla un altro po' giù di stazionare vado di lusso, penso. Una donna, la verticale o di polo? Una verticale. Dunque siamo abbastanza bene. Quando ti arrivo io a casa tua? Sentiamo di 7 con questa antenna, però solitamente con l'altra si è più forte. Ciao, sto usando 4 watt, sto usando normale. Cioè praticamente quasi alto sei modulato, Anto. Va bene, dai. Cappa, magari ci attacco qualcuno che ci arriva anche di più, ma già basta, dai, per farmi sentire basta. Stazionare e manco si muove l'ago, guarda. Sì, assolutamente, guarda. Va bene, figurati. Va benissimo. Gianni, riprendi pure. Riprendo e mi dico che devo andare a mangiare. Un 10 minuti e ritorno fra un po', dai. Vado a mangiare e poi torno. Vi saluto a tutti. Ciao anche a te, Salvato. Poi ci sentiamo, dai, magari rientro. Anch'io sono stato chiamato, per cui dai, ci sentiamo tutti quanti un po' più tardi. Anto, anche io vado a fare carica. A dopo allora, a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Salvato, vai, ce la risentiamo. Certo, che a dopo. Tanto. Beh. 8 minuti. Mi gioco la Juve 2-0 a Vicenza. Ciao Maria. Ha fatto due lotte e tu si mira la luce là. L'esterno. La luce là. Caffa. Droga. È meglio così. Mi ha pareggiato in casa, lo sai, col Bologna, stavo perdendo 1-0 in casa. Ha pareggiato agli ultimi minuti. L'ho visto già, ero sulla 7 gol 0 e c'era Crudelia, c'era, mi ha fatto troppo ridere. Quello qualche giorno mi hai fatto il fatto, dai. Continuo a mangiare, ci sentiamo dopo. Ah, va. Casa non ci fa morire, guarda. Lo che va a mangiare, va.